La formazione umana. 6. Per ciò che riguarda l'aspetto umano, la formazione tende a fortificare le virtù e contribuisce a definire il carattere. Il Signore ci vuole molto umani e molto divini, con gli occhi rivolti a Lui che è perfetto Dio e perfetto uomo. L'edificio della santità poggia su basi umane. La grazia presuppone la natura. Per questo il Concilio Vaticano II raccomanda ai fedeli laici di fare gran conto di quelle virtù che riguardano i rapporti sociali, cioè la probità, lo spirito di giustizia, la sincerità, la cortesia, la fortezza d'animo, senza le quali non ci può essere neanche vera vita cristiana. Una solida personalità si costruisce nella famiglia, nella scuola, nel posto di lavoro, nei rapporti di amicizia, nelle più svariate situazioni dell'esistenza. Si ha bisogno inoltre di imparare a comportarsi con nobiltà e onestà. In questo modo si migliora il carattere come base per fortificare la fede nei confronti delle difficoltà. Non hanno avuto l'occasione di ascoltare la parola divina o che l'hanno dimenticata. Ma sovente le loro disposizioni sono umanamente sincere, leali, compassionevoli, oneste. Oso affermare che chi riunisce in sé tali condizioni non è lontano dall'essere generoso. Oggi, più che mai, appare necessario riscoprire il valore e la necessità delle virtù umane, perché alcuni le considerano contrarie alla libertà, alla spontaneità, a ciò che sbagliando pensano sia autentico nell'uomo. Con rettitudine e fanno sì che la convivenza sociale sia giusta, pacifica, amabile. Anche se il clima che si respira in certi ambienti rende difficile cogliere questi valori, non per questo le virtù umane hanno perduto attrattiva. Dopo i molti allettamenti che non riescono a riempire il cuore, la persona umana finisce per cercare qualcosa che davvero valga la pena. Perciò a noi cristiani si presenta il grande impegno di mostrare prima di tutto col proprio esempio la bellezza di una vita virtuosa, vale a dire pienamente umana, una vita felice. Attualmente ci appaiono particolarmente importanti la temperanza e la fortezza. La temperanza. 7. La temperanza è padronanza di sé. Una padronanza che si ottiene quando ci si rende conto che non tutto ciò che sperimentiamo nel corpo e nell'anima va lasciato senza freno. Non tutto ciò che si può fare si deve fare. È molto agevole lasciarsi trasportare dagli impulsi che vengono chiamati naturali, ma al termine della loro corsa non si trova altro che la tristezza, l'isolamento nella propria miseria. Questa virtù introduce ordine e misura nel desiderio, un fermo e moderato dominio della ragione sulle passioni. Il suo esercizio non si riduce a una pura negazione, caricatura di questa virtù. Tende a fare in modo che il bene piacevole e l'attrazione che esso suscita si inseriscano armonicamente nella maturità globale della persona, nella salute dell'anima. La temperanza non è limitazione ma grandezza. C'è molta più limitazione nell'intemperanza dove il cuore abdica a se stesso per porsi al servizio del primo che offre il misero richiamo di un sonaglio di latta. L'esperienza rivela che l'intemperanza rende difficile il giudizio per stabilire che cosa è veramente buono. Come fanno pena quelli che adottano il piacere quale criterio delle loro decisioni. La persona disarmonica si lascia guidare dalle molteplici sensazioni che l'ambiente esterno suscita. Mettendo da parte la verità delle cose e cercando la felicità nelle esperienze fugaci, che essendo passeggere sensibili non soddisfano mai del tutto ma producono inquietudine e destabilizzano, fanno entrare la creatura in una spirale autodistruttiva. Viceversa, la temperanza conferisce serenità e calma. Non mette a tacere né nega i buoni desideri e le nobili passioni, ma restituisce all'uomo la padronanza di sé. In questo campo assumono una particolare responsabilità i soprannumerari, con il loro impegno a creare focolari cristiani. San José María diceva che i genitori debbono insegnare ai figli a vivere con sobrietà. È difficile, ma bisogna essere coraggiosi. Abbiate il coraggio di educare all'austerità. Il modo più efficace di trasmettere questo aspetto, soprattutto ai bambini piccoli, è l'esempio, perché capiranno la bellezza della virtù soltanto quando noteranno che voi rinunciate a un capriccio per amore verso di loro, oppure sacrificate il vostro riposo personale per ascoltarli, per stare con loro, per adempiere alla vostra missione di genitori. Aiutateli ad amministrare quello che usano, farete loro un gran bene, dentro la vostra stessa casa. La fortezza. 8. Certe volte avvertiamo dentro di noi una certa resistenza all'impegno, a ciò che richiede lavoro, sacrificio, abnegazione. La fortezza assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. Essa rafforza la decisione di resistere alle tentazioni e di superare gli ostacoli nella vita morale. La virtù della fortezza rende capaci di vincere la paura, perfino della morte, e di affrontare la prova e le persecuzioni. Lottiamo per acquisire abiti di vittoria nei piccoli dettagli: osservare un orario, curare l'ordine materiale, non cedere ai capricci, dominare la rabbia, completare un lavoro. Così potremo rispondere con più prontezza alle esigenze della nostra vocazione cristiana. Inoltre, la fortezza ci condurrà alla buona pazienza, a soffrire senza farlo pesare agli altri, a superare le contrarietà dovute alle nostre limitazioni e ai difetti personali, alla stanchezza, al carattere altrui, alle ingiustizie, alla mancanza di mezzi. È forte chi persevera fino al compimento di ciò che giudica di dover fare secondo coscienza, chi non stima il valore di un compito solo per i benefici che ne ottiene, ma per il servizio che presta agli altri. Chi è forte soffre talvolta, ma resiste, piange forse, ma inghiottisce le lacrime. Quando infieriscono le difficoltà, non si piega. È vero, per intraprendere ogni giorno il compito della propria santificazione e dell'apostolato in mezzo al mondo, si richiede fermezza. Sorgeranno forse alcuni ostacoli, ma la persona mossa dalla forza di Dio, quoniam tu es fortitudo mea, perché tu sei Signore la mia fortezza, non teme di operare, di proclamare e difendere la propria fede, anche quando questo richiede di andare controcorrente. Volgiamo di nuovo gli occhi ai primi cristiani. Essi andarono incontro a numerose difficoltà, perché la dottrina di Cristo appariva, allora come ora, un segno di contraddizione. Il mondo di oggi ha bisogno di donne e uomini che con la loro condotta quotidiana diano la testimonianza silenziosa ed eroica di tanti cristiani che vivono il Vangelo senza compromessi, compiendo il loro dovere. Il tono umano. 9. Il desiderio di coltivare le virtù umane contribuirà a far sì che si respiri il bonus odor Christi, il profumo di Cristo. In tale contesto si dimostra particolarmente importante il tono umano, il comportamento cordiale e rispettoso nei rapporti con gli altri. Incentiviamolo in seno alla famiglia, nei luoghi di lavoro, nei momenti dedicati al divertimento, allo sport, al riposo, anche se non poche volte anche in questo è necessario andare controcorrente. Non dobbiamo temere se certe volte la nostra semplice naturalezza cristiana si scontra con l'ambiente circostante, perché, come ci ha insegnato San José María, questa è appunto la naturalezza che il Signore ci chiede. Oggi diviene imperiosa la necessità di curare il tono umano e di promuoverlo intorno a noi. Spesso nella famiglia e nella società vengono trascurate queste manifestazioni di delicatezza nella condotta, con la scusa di una falsa naturalezza. Su questo terreno esistono molti modi di contribuire alla formazione. Il primo, come sempre, è l'esempio, anche se sarà bene insistere mediante colloqui personali e conversazioni con gruppi di persone. Il rispetto nel rapporto reciproco si dimostra nel modo di vestire conveniente e onesto, negli argomenti della conversazione e delle riunioni familiari, nella promozione di uno spirito di servizio gioioso, in casa, a scuola, nei luoghi di divertimento o di riposo, nella cura materiale delle case e nella cura delle piccole cose. Riveste una particolare importanza l'interesse nell'acquisire e stimolare un serio livello culturale, adeguato alla situazione di ciascuno in funzione degli studi compiuti, dell'ambiente sociale, dei gusti e delle inclinazioni personali. Mi limiterò a ricordarvi che in questo assumono un ruolo importante le letture e il buon uso del tempo opportunamente dedicato al riposo. 10. Nei centri dell'Opus Dei e nelle attività apostoliche avviate dai fedeli della prelatura si fa in modo che i giovani si abituino a pensare agli altri con generosità, con aneliti di servizio. Incoraggiamoli positivamente a forgiarsi un ideale di vita che non li costringa dentro limiti rachitici, comodi o egoisti. Ricordiamo come San José María insisteva nell'incoraggiare le ragazze e i ragazzi ad avere nobili ambizioni e a soprannaturalizzarle. Se coltivano nobili ambizioni con spirito di generosità e di sacrificio, apparirà più facile e semplice la considerazione dell'importanza di questi sforzi e il loro rilievo soprannaturale, e sarà più agevole aiutarli a fare passi avanti nella vita interiore e diventare strumenti idonei nelle mani di Cristo a servizio della Chiesa e della società. Molte ragazze e molti ragazzi, diceva una volta Giovanni Paolo II, sono esigenti in ciò che riguarda il significato e il modello della loro vita e desiderano liberarsi dalla confusione religiosa e morale. Aiutateli in questa impresa. Infatti, le nuove generazioni sono aperte e sono sensibili ai valori religiosi, anche se a volte in modo inconsapevole. Intuiscono che il relativismo religioso e morale non dà la felicità e che la libertà senza la verità è vana e illusoria. La creatura che si adatta a certi orizzonti ridotti molto difficilmente arriverà ad acquisire un'autentica formazione umana e cristiana. Non desistiamo nell'incoraggiare i giovani a sapersi misurare con i problemi di questo mondo. Il tono umano dei ministri sacri. 11. Anche per i sacerdoti si rivela imprescindibile l'esercizio delle virtù umane, per la natura stessa del ministero pastorale. I presbiteri svolgono il loro lavoro in mezzo al mondo, in contatto diretto con ogni tipo di persone, le quali, ha precisato Don Alvaro, sono assai spesso giudici severissimi del sacerdote e badano in primo luogo al suo modo di comportarsi in quanto uomo. Un sacerdote affabile, educato, pronto a dedicare il proprio tempo libero agli altri, si sa presentare bene e sa rendere gradevole la lotta del cristiano. Nessuna circostanza allontanò San José María dall'alto concetto che aveva del sacerdote. Per un verso, egli deve farsi tutto a tutti per arrivare a tutti, e per l'altro non deve dimenticare di rappresentare Cristo tra gli uomini. È logico quindi che deve sforzarsi, pur con i suoi limiti personali, in modo tale che gli altri fedeli scoprano il volto del Signore attraverso il suo comportamento personale. Conservano tutta la loro attualità le raccomandazioni che il nostro fondatore rivolgeva ai chierici, esortandoli a curare la correttezza nel modo di vestire affinché la gente sia nelle condizioni di riconoscerli come ministri di Cristo, come amministratori dei misteri di Dio. Il sacerdozio coinvolge tutta l'esistenza del presbitero, proprio per questo, perché deve apparire realmente e continuamente disponibile, deve essere riconosciuto facilmente, e l'abito sacerdotale, la veste talare o il clergyman lo distingue chiaramente. Nella società di oggi, molto legata alla cultura dell'immagine e nello stesso tempo forse lontana da Dio, la veste sacerdotale non passa inosservata. Per questo i sacerdoti della prelatura che esercitano il loro ministero pastorale in una chiesa portano abitualmente la veste talare, e così anche nei nostri centri. dei paesi dove hanno adottato altre consuetudini, diceva nostro padre, non dico niente. Faremo sempre quello che indicherà la Chiesa. Tuttavia, in casa porteremo la veste talare. Coloro che parlano di libertà devono almeno rispettare la nostra libertà di vestire come vogliamo in casa.